prima edizione. L'informazione del mattino. 6, 12 minuti e 17 secondi. Allora, vediamo di fare ancora una volta un punto su quello che sta succedendo in questi minuti a Bruxelles, perché, come vi dicevamo, il vertice tra i capi di Stato e di governo europei per decidere il futuro dell'Eurozona è proseguito praticamente per tutta la notte, perché c'è stato un primo appuntamento con l'Europa 27, poi, vista l'opposizione della Gran Bretagna ad alcuni punti dell'accordo, si è deciso di proseguire solamente con i paesi della zona euro. L'accordo alla fine si è raggiunto e proprio a causa di questa opposizione della Gran Bretagna sono di poco fa le parole del presidente francese Nicolas Sarkozy, che sono molto dure. Ha spiegato che è stato a causa delle condizioni inaccettabili poste dal premier inglese David Cameron se non si è potuto procedere sulla strada di una riforma dei trattati a 27, e dunque se oggi è nata un'Europa Europa a due velocità è colpa della Gran Bretagna, così Nicolas Sarkozy. Per quanto riguarda la reazione di Angela Merkel, ve lo dicevamo, parla di buon risultato grazie al quale l'euro riconquisterà la sua credibilità. Dice ancora Merkel: costruiremo un'unione di bilancio per l'euro che sarà allo stesso tempo una unione di stabilità. Al momento che cosa sappiamo di questo accordo? Sappiamo che la Banca Centrale Europea gestirà il fondo salva stati, il cosiddetto IFSF, e sappiamo anche che i paesi europei, la conferma è arrivata poco fa anche dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, forniranno 200 miliardi all'FMI, appunto al Fondo Monetario Internazionale. Con l'opposizione della Germania, a causa dell'opposizione della Germania, sappiamo che il Fondo Europeo Permanente Salva Stati, l'ISM, sarà operativo da luglio del 2012, ma non avrà il potere di agire come una banca. Questo è quello che è emerso, è quello che ha riferito sempre Nicolas Sarkozy. E Sarkozy ha riferito anche che il ricorso alla ristrutturazione dei debiti dei privati è stata esclusa, e quindi in sostanza che cosa fa Sarkozy? Esclude uno scenario di tipo greco. Prima di dare la viabilità, vi devo dare un altro aggiornamento, in realtà di tutt'altro tipo, che arriva dall'India. Almeno 20 persone, questa è di cronaca, sono morte in un pauroso incendio scoppiato questa mattina in un ospedale di Calcutta. Il rogo si è sviluppato negli scantinati, sul posto sono al lavoro molte squadre dei vigili del fuoco, si teme che molti pazienti siano ancora intrappolati nelle corsie dell'ospedale. Questo anche dal lato della cronaca, perché anche di questo naturalmente ci occupiamo in prima edizione. Ora la viabilità, ci ritroviamo subito dopo, vedremo di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, naturalmente con la nota, l'ovvia nota, ve lo ribadiremo tra poco, che c'è un minimo di invecchiamento delle prime pagine, diciamo così, proprio a causa del proseguire durante la notte del vertice europeo. A tra poco. Prima edizione. Le 6, 17 minuti e 23 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Segnalano alcune agenzie un certo ritardo, proprio evidentemente per la tensione che si è accumulata nel corso del vertice per la conferenza stampa proprio del premier inglese David Cameron, insomma circa mezz'ora rispetto a quella di Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, che invece sono usciti subito. Allora, noi però come sempre a quest'ora diamo un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina, e possiamo iniziare direi questa mattina dal Sole 24 Ore, che certamente, concentrandosi sui mercati in particolare, come dire, ha un più attuale, se vogliamo, rispetto agli altri, almeno dal lato delle notizie che riguardano l'Europa. Il titolo principale è: balzo dello spread cade Piazza Affari, BTP Bund a quota 442, Milano perde il 4,3% e l'EBA chiede alle banche 114,6 miliardi. Si parla, la foto di prima pagina, l'unica foto di prima pagina perché il resto sono grafici, è per Mario Draghi, perché c'è anche il titolo ovviamente sulla Banca Centrale Europea: Draghi taglia i tassi all'1% e garantisce liquidità. Il commento sulla politica monetaria è a firma di Guido Tabellini e dice, e il titolo mi sembra abbastanza esemplificativo, la BCE può fare meglio e di più. Questo il quadro, c'è anche un'analisi perché molto si è discusso il ruolo dell'EBA, dell'autorità bancaria europea, un commento in prima pagina, un'analisi in prima pagina di Antonella Olivieri che dice misure EBA intralcio all'economia. Per quanto riguarda le cronache dalla manovra, ecco che cosa riporta oggi il Sole 24 Ore. Il conto degli interessi sul 2012 sono 17 miliardi, ma soprattutto il titolo è: si studiano sgravi sull'ICI per le famiglie. E poi si parla del duello sulla vendita delle frequenze TV. Ampio spazio anche oggi alla manovra, anche come guida pratica alla manovra, inserto speciale con i testi commentati, le analisi degli esperti e gli esempi di applicazione delle norme. Questo il quadro dal Sole 24 Ore. Per quanto riguarda la crisi del debito, c'è un pezzo, un commento a firma di Francesco Caselli che si intitola "Serve l'artiglieria pesante". Vedremo se quella decisa questa notte sarà considerata tale. Il Corriere della Sera, il titolo è "Schiaffo alle banche, borse giù e lite sull'Europa", questo il titolo. Il vertice più drammatico dell'Unione Europea, Sarkozy che dice ultima chance, sì dei 27 a rigore di bilancio. Per quanto riguarda i commenti, firma in prima pagina Antonio Polito con il titolo "Il nodo da tagliare", e ricorda tra l'altro che esattamente 20 anni fa, in un altro weekend di dicembre, l'Europa della moneta nasceva a Maastricht, quindi ricorre un anniversario importante. A centropagina troviamo due cose sul Corriere della Sera: la solita foto centrale che ci parla dei sospetti di Combin per la vittoria del Lione a Zagabria, 7 gol in mezz'ora e l'occhiolino del difensore della Dinamo Zagabria, questo i sospetti di Combin su un passaggio del turno in Champions League dell'Olympique Lione. Ma troviamo anche naturalmente lo spazio dedicato alla manovra, dall'addizionale IRPEF all'aumento della benzina, busta paga più leggera, i dubbi sul nuovo prelievo per i capitali scudati. Ma da segnalare sul Corriere della Sera di oggi, intervista di Aldo Cazzullo a Cesare Geronzi, che era sparito da un po'. Geronzi, il titolo è "Geronzi, la massoneria conta più di prima". Così dice Geronzi e racconta al Corriere quando Cuccia gli disse "i bilanci di Berlusconi sono falsi" e spiega anche gli ottimi rapporti con D'Alema e Fassino. "Mi feci carico del salvataggio del PC". Titolo sul Corriere della Sera, anche il ritrovamento della bara di Mike Bongiorno era abbandonata dentro un fossato. La Repubblica sceglie il titolo "Ultima chance per l'Europa", il commento in prima pagina è di Alessandro Penati che firma "I grandi nella nebbia", si intitola, e poi c'è una storia che, come dire, che farà discutere senza dubbio a centropagina. Il titolo è "Giudice faccia abortire nostra figlia". E qual è la storia? Trento, i genitori di una 16enne fidanzata con un albanese chiedono al tribunale di costringerla a interrompere la gravidanza, ma lei si oppone. Poi Repubblica torna anche su un tema che ogni tanto riemerge fuori, che è quello dei pendolari. Linee e carrozze soppresse, per fare 100 km c'è chi impiega 7 ore e 2 cambi, pendolari i treni della vergogna. C'è anche un titolo dedicato alla trincea Notav in Valsusa, scontri e feriti nel cantiere. Veniamo alla Stampa. Anche qua "Ultima chance per l'euro" è il titolo principale. C'è un'intervista firmata da Riccardo Barenghi con Massimo D'Alema: "Stavolta pagano anche i ricchi, finora non era mai successo". Il leader democratico sulla previdenza e il governo ascolti le richieste del sindacato. E poi c'è una storia interessante, un'inchiesta della Stampa, dei file americani inediti, documenti riservati della diplomazia americana che riguardano il nostro paese. quell'amicizia Italia-Libia che ingelosì l'America. L'amministrazione Bush, scrive Mastro Lilli, era gelosa ai risultati ottenuti da Silvio Berlusconi in Libia alla fine dell'estate del 2008. Era anche sospettosa, quindi storia interessante che troviamo appunto sulla Stampa, e si parla anche ancora dell'arresto di Michele Zagaria, il boss dei Casalesi. Il paese del boss, adesso chi ci darà il pane? Questa è la storia che viene raccontata. E poi anche divertente, se vogliamo, la storia da Londra. Costa troppo, ridotta da 4 a 2 la pillole, la prescrizione mensile gratuita. Londra, se la mutua taglia il Viagra. Questo il quadro che ci arriva dai quotidiani italiani, dai principali quotidiani italiani. Ecco, chiudiamo la pagina dei quotidiani italiani, giusto per fare i principali, con il Messaggero: taglio dei tassi, borse giù, è il titolo principale. Un commento in prima pagina firma di Mario Del Pero: la partita globale dei debiti sovrani. A centro pagina la foto del Papa, folla per il Papa a Piazza di Spagna. C'è un titolo sulla manovra, ovviamente, e c'è una fotonotizia con gli spari nel campus maledetto, due morti al Virginia Tech, come vi dicevamo, ne parleremo dopo. E poi si parla anche di calcio, in particolare di Roma. Osvaldo, i nervi tesi della Roma quando comandano tutti e nessuno. Questo è il titolo utilizzato dal Messaggero. Allora, vi diamo un quadro di massima di quello che troviamo sul, almeno sui siti dei quotidiani internazionali, di alcuni dei quotidiani internazionali, alcuni più aggiornati, altri meno. Comunque, iniziamo dal New York Times, che racconta una storia molto americana oggi, come sceglie come titolo di apertura, una storia molto americana, e parla del piombo che c'è nelle batterie esaurite che ci sono negli Stati Uniti, che vengono utilizzate quotidianamente. Che cosa succede a queste batterie? Vengono spedite in Messico, dove ovviamente smaltirle costa molto meno, ma quello che ne viene estratto, in sostanza, viene estratto con metodi che sono illegali negli Stati Uniti, e quindi c'è un rischio di avvelenamento che si fa molto molto forte. Da segnalare la decisione di Obama, l'appoggio di Obama alla decisione di limitare la pillola del giorno dopo. Questo è un altro tema interessante, e anche questo molto americano. Non ci sono ancora aggiornamenti da questo lato sull'andamento notturno del vertice. Per quanto riguarda il Financial Times, il titolo, anche qua siamo poco aggiornati, però la questione su cui ci si concentra è la richiesta di nuovo capitale fatta dall'EBA, dalla European Banking Authority, e altrettanto per quanto riguarda il Wall Street, per quanto riguarda il Wall Street Journal. Questo, diciamo, un quadro da quelli che possiamo considerare i principali quotidiani internazionali, almeno dalle prime pagine. Vi ricordiamo ancora una volta che comunque gli aggiornamenti sono ancora piuttosto scarsi. Sono le 6:27 minuti e 35 secondi. Noi ci ritroviamo tra un attimo con il giornale radio, e adesso è il momento di una breve pausa. Prima edizione. 6:33 minuti e 32 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, oggi è 9 dicembre, vi parla Daniele Biacchessi. Domeniche ecologiche, targhe alterne, città chiuse, centri chiusi, parzialmente aperti. Ogni comune fa i conti con l'inquinamento da traffico e propone le sue ricette. Alcune funzionano, altre meno. Si naviga a vista anche in queste ore, anche a Milano, ma la risposta potrebbe essere la congestion charge.

regole di bilancio, accordo che tiene fuori la Gran Bretagna, insomma riguarda solamente i paesi dell'area euro. Si sono opposti fondamentalmente Gran Bretagna ed Ungheria ad alcuni termini dell'accordo. Allora andremo a Bruxelles tra un attimo. Prima però vogliamo andare negli Stati Uniti. Ricorderete la strage nel campus universitario Virginia Tech a Blacksburg, appunto negli Stati Uniti, 4 anni fa, la più grave che sia mai avvenuta. Ebbene, ieri è tornata la paura. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, è così? Simone, beh, direi che l'America è stata di nuovo per un po' ieri sotto la cappa del terrore, perché Virginia Tech rievoca come tragica strage di 33 studenti nel 2007 in un campus universitario, e ieri di nuovo due morti, all'improvviso le notizie hanno battuto l'agenzia, due morti per una sparatoria a Virginia Tech. Subito non si è capito di cosa si trattasse, poi abbiamo appreso che un poliziotto era stato ucciso. Adesso devo dire, qui è tarda notte, ci sono notizie un po' più precise, ma la situazione resta vaga. Allora, le ultimissime ricostruzioni sono queste: sembra che una macchina si fosse avvicinata a un posto di blocco di una polizia, un posto di blocco singolo di un'auto della polizia con un paio di poliziotti, e il poliziotto ha attivato questa macchina di fermarsi per un normale controllo. La macchina sembra che si sia fermata e dopodiché c'è stata una sparatoria. Il guidatore della macchina avrebbe sparato e ucciso il poliziotto, ma a sua volta sarebbe poi stato ucciso da un altro poliziotto che era presente. Il campus è rimasto chiuso, bloccato, e ripeto, si è trattato, almeno dalle notizie che abbiamo avuto dalla polizia finora, di un caso di criminalità del tutto normale. Resta ovviamente il parallelo con quello che è successo qualche anno fa, perché insomma Virginia Tech è stata la più grande strage in un campus universitario americano. Ci fu questo giovane studente, Sweng Yun Cho, che dopo essere stato interrogato dalle autorità dell'università perché sembrava essere un po' troppo ossessionato con una ragazza, ha perso la testa e ha tirato fuori una pistola, sparato centinaia di colpi, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, fu una tragedia perché poi si chiuse dentro una delle aule universitarie, la gente si nascondeva sotto i tavoli, quello continuava a sparare fino a che poi non si è suicidato. È stata una cosa veramente orrenda quella che è capitata allora, e dunque non è un caso che Virginia Tech viva così un po' in una situazione di ansietà. E guarda caso, dopo pochi anni si ripropone una sparatoria con due morti, con l'uccisione. Per fortuna resta l'idea che questo resti un caso di cronaca. A te la linea, Simone. Grazie dunque a Mario Platero per questo racconto, e noi adesso cambiamo argomento. E andiamo finalmente a Bruxelles, dove è stata una notte intensissima di trattative, forse anche inaspettatamente, a dir la verità. Ci colleghiamo col nostro inviato Sergio Nava. Sergio, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa è successo? Iniziamo da su cosa si sono accordati i leader europei, o meglio, scusami, iniziamo dalla cornice invece, perché c'è stato un problema, si voleva un accordo a 27, in realtà l'accordo a 27 non è arrivato per l'opposizione della Gran Bretagna, in sostanza. Gran Bretagna soprattutto, ma anche Ungheria. Quello che è successo stanotte è che l'Europa è diventata veramente di fatto a due velocità, e cioè si è andati a un trattato di fatto intergovernativo sulla maggiore unione fiscale e di bilancio per dare una risposta ai mercati, ma lo si è fatto a 17+6, mancano la Gran Bretagna e l'Ungheria che si sono opposti, Svezia e Repubblica Ceca non avevano il mandato parlamentare, di conseguenza quella che è nata stanotte è un'unione che avrà una politica fiscale e di bilancio compatta in parte due paesi rimarranno fuori. Sugli Eurobond si è rinviato tutto a giugno, come è stato poi reso noto. Le ore di riunione sono state in attesa, sono state ben 10, si doveva tenere il vertice vero e proprio oggi, ma i leader hanno fatto le ore piccole, hanno chiuso alle 4 del mattino e tra l'altro stamattina, Sergio, si ricomincia, no? Da quel che ho capito. Si ricomincia per il vertice vero e proprio che era previsto oggi, ma di fatto tutte le decisioni principali sono state già prese nella notte. Allora, adesso guarda Sergio, adesso ti porterò ai contenuti. Prima ci sentiamo che cosa sta succedendo su strade e autostrade questa mattina e poi andiamo sui contenuti, almeno da quel che si sa, naturalmente, da quel che sta emergendo in questi minuti, e anche magari andiamo anche a qualche reazione politica, qualche reazione istituzionale da parte di capi di governo. La viabilità. Prima edizione. 6:46 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Siamo con Sergio Nava, nostro inviato a Bruxelles per questo vertice europeo che doveva essere cruciale, ed effettivamente lo è. E eravamo sui contenuti del vertice. Che cosa è emerso finora, Sergio, di quel che hanno deciso nella notte, in questa lunghissima notte, i leader europei? Si dice bene lunghissima notte, 10 ore di summit. I contenuti sono per ora non chiarissimi, bisogna dire, ma qualcosa già è possibile capire, cioè unione di bilancio, diciamo, attraverso un trattato intergovernativo a 17+6, quindi con una maggiore sorveglianza anche dei conti pubblici e delle politiche fiscali, regole più severe per garantire il rispetto del pareggio di bilancio, con uno sforamento strutturale massimo pari allo 0,5% del PIL, via libera alla riforma del fondo salva stati, che sarà gestito dalla BCE ma non avrà il potere di agire come una banca. Gli Eurobond, dicevamo anche prima, è stato rinviato tutto a giugno, qui c'era ovviamente l'opposizione tedesca, e poi concessione di prestiti su base bilaterale al Fondo Monetario Internazionale per un totale di 200 miliardi di euro. Quindi questi sono per adesso le indiscrezioni, i primi punti. C'è qualcosa sui temi, insomma, che già erano stati accennati nei giorni scorsi, soprattutto la questione dei prestiti all'FMI su base bilaterale. Occorrerà capire se i mercati sono soddisfatti. L'Europa è spaccata, è evidente, la Gran Bretagna e l'Ungheria si sono chiamate fuori, c'è un trattato intergovernativo, non ci sarà una revisione quindi del trattato di Lisbona, e soprattutto non è ancora ben chiaro quanto questa potenza di fuoco a difesa dell'euro potrà in qualche modo convincere i mercati. Le reazioni, dicevamo prima... Esatto, io su quello volevo capire, perché mi sembra di capire che la tensione tra gli stati europei e tra gli stati dell'Eurozona, in particolare la Gran Bretagna, stia salendo notevolmente. Beh sì, diciamo che Nicolas Sarkozy l'ha detto chiaramente, la Gran Bretagna, ha detto il presidente francese, è causa dell'Unione Europea a due velocità, si è chiamata fuori, ha detto Sarkozy, lo ha detto in modo esplicito, mentre la cancelliera tedesca Merkel ha detto l'euro riconquista la credibilità, quindi ha preferito una dichiarazione un po' più di pragmatica. Anche il presidente della BCE Draghi si è detto soddisfatto, un risultato molto buono per l'Eurozona, sono tutte dichiarazioni tra l'altro delle 5 del mattino, tanto per darvi l'idea di quello che è successo stanotte qui a Bruxelles. Sarkozy, come al solito, col suo stile ben più pungente, non si è tirato indietro, ha detto Londra ha di fatto aperto un'Unione Europea a due velocità, e forse anche quello che ormai era un po' nelle cose, di fronte a un attacco speculativo di questo tipo e di fronte a una crisi di questo tipo l'Europa doveva dare una risposta, e chi non ci stava non ci poteva stare, doveva di fatto lasciare almeno temporaneamente il treno. Ovviamente non è un'uscita dall'Unione Europea, ma è un'uscita da un'integrazione fiscale maggiore dell'Unione Europea. Ci spieghi brevemente, Sergio, in pochi secondi, qual è il punto di dissenso maggiore, un pochino meglio, il punto di dissenso maggiore della Gran Bretagna con gli altri paesi d'Europa? Da quello che si è capito, insomma, quell'unione fiscale portata avanti da Merkel e Sarkozy negli ultimi giorni, un'unione di politiche fiscali, un'unione di politiche di bilancio, che di fatto implica un coordinamento ben più vincolante di quello che finora è accaduto, non va bene ovviamente a Londra, non piace alla Gran Bretagna, e di conseguenza Londra con l'Ungheria si sono chiamate fuori, cioè quello che ha sempre, insomma, che è sempre mancato negli ultimi 10 anni e più all'Eurozona è stato molto semplicemente un coordinamento delle politiche economiche, un coordinamento delle politiche fiscali reale, non sulla carta o non diciamo teorico, che facesse davvero supporto all'Eurozona. Sotto la pressione dei mercati, sotto la pressione di una crisi devastante, finalmente i paesi europei si sono decisi a farlo, ma chiaramente questo non piace a Londra. Non piace a Londra. Oltre è difficile dire, perché i dettagli finora non sono così chiari, però questo è il senso. Va bene, vedremo nel corso della giornata e poi ti risentiremo naturalmente nei giornali radio. Intanto grazie Sergio Nava e buon lavoro e buona giornata. Buona giornata. Noi dedichiamo l'ultimo paio di minuti di prima edizione proprio ai mercati, naturalmente, che adesso guardano a quello che è successo nella notte. Valeria De Rosa, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Possiamo intanto dire che le borse asiatiche guardano all'Europa e non vedono cose che le soddisfano. Infatti tutti i listini asiatici sono in calo, Tokyo in questo momento cede l'1,30%, si avvia alla chiusura. Diciamo che le premesse non sono delle migliori, anche perché non solo c'è da tenere conto di quanto è accaduto questa notte e lo raccontava il collega Nava, quindi un'Europa a due velocità, ma anche di quanto è accaduto ieri, che è stata una giornata frenetica per i mercati e diciamo per noi in particolare, per Milano, molto negativa, con una chiusura di inflessione di oltre 4 punti percentuali. Ieri c'è stata anche tensione, tra l'altro, sui titoli di Stato, con lo spread oltre i 444 in chiusura, per essere esatti. Valeria, a pesare ieri è stata l'EBA, no? L'autorità bancaria europea. Esattamente, è stata l'EBA che ieri ha reso definitive le sue stime per quanto riguarda la necessaria ripatrimonializzazione delle banche europee. Allora, che cosa è successo? Che al 26 di ottobre l'EBA aveva dato una cifra, 106 miliardi circa, per le circa 70 banche europee che hanno bisogno di nuovi capitali. Ieri ha rincarato ulteriormente, sono oltre 114 miliardi che servono alle banche europee. Per non far torto a nessuno, è stata severa sia con le italiane sia con tutte le altre, quindi anche quelle tedesche devono ulteriormente trovare capitali per rinforzarsi, perché c'è un problema di svalutazione dei titoli di Stato che hanno in pancia tutte queste banche, non solo quelle italiane, quelle francesi, quelle tedesche, e quindi questo ha portato diciamo sui mercati un diffuso pessimismo, mettiamola così, che si è manifestato con i cali di ieri. Grazie anche a Valeria De Rosa, io ringrazio anche Carmelo Lauricella in regia, Viola Bottoni in redazione, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, una buona giornata, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.